lasciate in macchina. Come si chiama? Prisovex, quella medicina? No, non mi hai mandato proprio nulla a me. Sono appeso al cane, non riusciamo a bloccare il tuo problema, hai fatto anche la puntura, fammi sapere come si chiama, perché non c'è in farmacia, l'ordinata arriva domani mattina. Cosa già? E non spruzza, ma sì, le gocciole, è accoricato, ho dovuto lavare tutta la brandina, un casino. Oi. Gli ha fatto una puntura, non so che puntura gli ha fatto. È andato a medicina, siamo andati a prenderla, però non c'è. E anche a Ilaria gliel'ha fatta online la ricetta. Guarda a vedere come si chiama questa pastiglia. Come si chiama già? Sì, già, mi è arrivata. Sì, già, mi è arrivata. Ha fatto il catetere, non c'ha niente alle vie renali, la pipì è bella pulita, c'è un'infiammazione al cornicione a forza di masturbarsi. Ah, non vi credi, e vai da Renima e uscì. Chi è ora già, se il tempo ci assiste ne l'hanno premuto in terra e ci teniamo pronti. Ne buttiamo tutto, smontiamo quella roba lì, facciamo pulizia, piazziamo già il piantone col paro, pronto a attaccare l'antenna, il cavo e tirare su. Che grossieri si fa sgheggiare, che si arrugginiscono, ti rovinano tutto il paro. Io crociere già, sinceramente non ne ho mai fatto. Marco Scorpio mi aveva insegnato come si fa il nodo, capito? Il nodo attaccato al palo e occhiellato con quei cavallotti che c'hai tu. Altro che crociere, io mai ne ho usato crociere, mai. E non li usano neanche loro. Che troppi sono, certo che basta. Cosa devi rinforzare? Perché la crociera cos'è? Un rinforzo? La crociera è per agganciare i tiranti. I tiranti da che mondo è mondo si attaccano al tubo, come ho sempre fatto io, come c'ha Luca, come c'hanno tutti. Crociere non ne abbiamo mai usato noi, perché si arrugginiscono, hai visto come sono diventate quelle? E ti sporcano tutto di ruggine il palo. Allontano dalla radio già, che sono appresso al cane, che abbiamo lavorato tutto. mattino, se no me l'hanno fatta ciocci. Vabbè, dai. Ci aggiorniamo dopo. No, l'abbiamo ordinata qua, arriva domani mattina. Pazienza, questa notte è così, ha fatto la puntura, però è un residuo, perché non ha gocciolato, ha sporcato solo il materassino, quindi può essere che sia un residuo, ma c'è il materassino tutto pieno. Adesso l'ha lavato mia moglie, abbiamo messo fuori asciugare e le metto l'altro materassino, capito che io ho due, con la speranza che stanotte non si sporchi di nuovo, perché si è tutto sporcato sotto la pancia, capito? Poi fa puzza. Va bene, dai, mi allontano dalla radio già, ci aggiorniamo dopo. Ehi, vabbè, ci aggiorniamo dopo, non so se entra Giulio, se entra qualcuno a farti due chiacchiere. Io rimango in ascolto, ma non riprendo adesso, dai.